Non stai, e sussa a guardare, sembra un angelo, e mi stringe il suo corpo, e mi dona la sua bocca, e mi diceva sono tua, o di piazzare io la stagna. E mollai sul superviso rimandando la Respira, respira. Aquilo.